24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'elezione di Martin Schulz a presidente dell'Europarlamento. Restano osservate speciali in Europa l'Ungheria e la Grecia, mentre gli occhi del continente sono ancora puntati sulla piccola isola toscana del Giglio, che dopo il naufragio della Costa Concordia rischia il disastro ambientale. A chiudere vi racconteremo come le novità nel fisco spagnolo potrebbero influenzare il calciomercato europeo. Come avete sentito dai titoli, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz è stato eletto presidente del Parlamento europeo per la seconda metà della legislatura. Sostituirà il polacco Jerzy Buzek. Nel suo programma alla guida dell'Europarlamento, Schulz punta al rilancio della crescita e dell'occupazione, potenziando il welfare invece che riducendolo. È anche un paladino della Tobin Tax, delle norme antispeculazione, della regolamentazione per le agenzie di rating e degli Eurobond. E l'austriaco Hannes Svoboda è stato eletto come successore di Schulz alla guida del gruppo Socialisti Democratici all'Europarlamento. Svoboda ha ottenuto 102 voti. Intanto il premier ungherese Viktor Orban ha chiesto di essere ascoltato dall'Europarlamento per difendere la sua politica e la Commissione europea apre un procedimento contro il governo magiaro. La crisi ungherese sbarca a Strasburgo nel giorno che segna l'esordio del tedesco Martin Schulz alla presidenza dell'Assemblea. Ieri il parlamentare socialista tedesco aveva auspicato l'intervento del premier Viktor Orban, ricordando che la nostra Assemblea si deve adoperare per il rispetto dei diritti fondamentali e della democrazia. Chi ha idee diverse, ha spiegato Schulz, deve aspettarsi però la nostra reazione. Il neopresidente dell'Assemblea ha anche definito inammissibile che uno Stato membro affermi di voler decidere da solo della sua politica interna, perché la politica interna di un paese fa parte della politica europea. Ed ha ricordato allora il caso Austria del 2000, quando fu il presidente austriaco a pretendere l'impegno scritto di Haider al rispetto della Costituzione e del diritto europeo. La Commissione europea ha intanto aperto 3 procedure di infrazione contro Budapest per aver varato leggi, come quella che riguarda l'indipendenza della Banca Centrale, in contrasto con il diritto UE. Bruxelles ha anche chiesto chiarimenti urgenti sul tema dell'indipendenza dei giudici. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. L'economia, i dati positivi sull'economia cinese e la crescita record a gennaio dell'indice CEF tedesco hanno sostenuto le borse europee, che hanno chiuso in netto rialzo. Milano più 0,69%, ha limato i guadagni nel pomeriggio, complice l'allarme di Fitch che potrebbe declassare l'Italia entro gennaio, ma soprattutto a causa dell'andamento negativo delle banche. Sentiamo. I dati positivi sull'economia cinese e la crescita record a gennaio dell'indice tedesco sulla fiducia hanno sostenuto le borse europee che hanno chiuso in netto rialzo. Milano più 0,69% ha limato i guadagni nel pomeriggio, complice l'allarme di Fitch che potrebbe deglassare l'Italia entro gennaio e l'andamento negativo delle banche dopo i conti sotto le attese di Citigroup. Ha fatto eccezione Unicredit più 2,80%. Le azioni, sempre sotto riflettori per l'aumento di capitale in corso, hanno beneficiato dell'annuncio del fondo di Abu Dhabi, Abar, che ha dichiarato di voler incrementare la quota dal 4,99 al 6,5%. Su FTSE MIB bene anche Enel, che ha guadagnato oltre il 2% per le indicazioni positive sull'impatto che avranno sui conti le nuove tariffe relative alla distribuzione elettrica. Per contro male Mediaset meno 2,4% sui timori per l'andamento della pubblicità. Mediobanca ha rivisto al ribasso le stime 2011-2012 per la raccolta pubblicitaria sui canali free to air e pay TV, oltre alle attese sul dividendo stimato a 15 centesimi dai precedenti 18. Livia Zancanera da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea ritiene che vada aumentata la dotazione del Fondo Salva Stati IFSF, declassato lunedì da S&P, per aumentare il suo potere dissuasivo. Lo ha affermato il portavoce del commissario Olli Rehn. E proprio Rehn ritiene che il potere delle agenzie di rating sia detenuto in pochissime mani, tutte basate fuori dall'Unione europea. Ancora una giornata di protesta popolare ieri nella capitale greca Atene, la prima del 2012, mentre ci sono segnali contrastanti sul fronte economico-finanziario. Oltre 10.000 lavoratori greci sono scesi nelle strade del centro di Atene per manifestare ancora una volta contro la politica di austerity varata dal governo per cercare di salvare il paese dalla bancarotta. Ma le manifestazioni si sono svolte anche contro la Troika, la Commissione europea, la Banca centrale europea, il Fondo monetario internazionale e contro i rappresentanti dei creditori internazionali della Grecia, ritenuti responsabili della grave situazione economica in cui versa la gente. Il tutto mentre le banche greche ribadiscono il loro impegno per raggiungere un accordo sulla ristrutturazione del debito della Grecia. Grecia. L'Istituto della Finanza Internazionale, quello che le rappresenta, conferma il ritorno al tavolo dei suoi caponegoziatori oggi ad Atene per ridurre il debito su base volontaria. Periodo decisivo per la Grecia, ma sul tavolo e sulle piazze pesa la dichiarazione del responsabile dei rating sovrani europei di Fitch Rating, Edward Parker, che azzarda una previsione: la Grecia insolvente farà default, travolgendo anche l'accordo per imporre perdite ai creditori privati. Il tutto mentre il governo dovrà prendere decisioni molto difficili che riguardano i diritti dei lavoratori del settore privato e non solo, in un periodo che è già preelettorale. Il Parlamento greco verrà sciolto al più tardi nei primi giorni di aprile per andare ad elezioni anticipate. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono pronti a partire i team di esperti incaricati della fase di controllo degli stress test sulla sicurezza degli impianti nucleari nell'Unione Europea. La selezione delle squadre per le cosiddette peer reviews è stata completata, ha riferito l'ufficio stampa del Dipartimento Energia della Commissione. E ora il grave disastro ecologico al largo dell'isola toscana del Giglio, che ha coinvolto numerosi turisti europei. Giovedì sarà dichiarato lo stato d'emergenza. Ieri mattina il ministro per l'ambiente Corrado Clini ha ribadito la minaccia di un disastro ambientale. Alla quantità di carburante che è stivato nei serbatoi c'è un elevato rischio di disastro ambientale qualora i serbatoi si dovessero rompere, cioè non fosse possibile svuotarli e trasferire il carburante su un'altra nave. La situazione al momento teoricamente consentirebbe procedure di svuotamento. Prima di procedere allo svuotamento è necessario completare le operazioni per la ricerca di eventuali superstiti, e queste operazioni richiedono che la nave sia tenuta nell'equilibrio attuale. È evidente che lo svuotamento dei serbatoi potrebbe compromettere questo equilibrio, per cui per il momento si sta lavorando alla definizione del piano di intervento senza però procedere. Si era diffusa la notizia che già iniziavano a vedersi delle chiazze di carburante. Lei ha chiarito poi che non si tratta di carburante. Di che cosa si tratta? Ah, questo non lo sappiamo, sai, in una nave di fluidi ce ne sono molti, per cui potrebbe essere un fluido che viene dallo schiacciamento delle scialuppe di salvataggio, piuttosto che dalle cucine, piuttosto che dalla rottura di tubi interni. Al momento quindi esclude la rottura dei serbatoi di carburante della nave? Al momento non abbiamo nessun segnale che i serbatoi siano stati compromessi, siano stati lesi. Parliamo ora di lotta all'evasione fiscale, caso davvero singolare in Europa, l'Austria. Novità per il fisco spagnolo, novità che potrebbero influenzare anche il calciomercato europeo. Sentiamo. L'avevano chiamata legge Beckham, dal nome dello Spice Boy che per primo ne beneficiò passando dal Manchester United al Real Madrid. Ma ora quella legge è stata cancellata e i rapporti di forza economici nel calcio europeo, finora a tutto vantaggio delle squadre spagnole, potrebbero cambiare. Sì, perché nel 2004 un intervento del governo di destra di José María Aznar aveva cambiato le regole della sfida a favore dei club iberici, approvando, con l'idea di attrarre grandi professionisti in arrivo dall'estero, una legge che riduceva per 6 anni dal 46 al 24% l'aliquota fiscale degli stranieri contrattati in Spagna. Si pensava così di dare una mano alle grandi imprese, finirono invece col beneficiarne soprattutto le squadre di calcio, che videro ridotta quasi del 50% la pressione fiscale sui contratti dei calciatori presi all'estero. Poi però con l'avanzare della crisi la misura è parsa prima inadeguata e poi insensata, tanto che nel 2009 il governo socialista di Zapatero ha ceduto alle pressioni in arrivo dalla sua sinistra e l'ha abolita. Dal 1 gennaio 2010 i contratti superiori ai 600.000 euro l'anno non hanno più goduto del trattamento fiscale agevolato. Ora il nuovo premier, il popolare Mariano Rajoy, è andato oltre, alzando fino al 52% l'aliquota dei contratti superiori ai 300.000 euro. Cosa che vale anche per i rinnovi dei contratti dei calciatori già in Spagna. Basti pensare quindi che quando Cristiano Ronaldo dovrà rinnovare il proprio contratto col Real Madrid, vorrà più soldi e il Madrid sarà costretto a pagare tasse del 52% sul suo nuovo ingaggio. Basterà per portare il fenomenale portoghese lontano dalle merengues? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa. In collaborazione con Euronet.